L'associazione Fallimbuca è un'associazione che ha ormai quasi 15 anni di attività sui territori nell'Unione Reno-Galliera, ha sede a Castelmaggiore, è nata come gruppo di lettura di sole donne e poi è evoluta in un'associazione culturale che si occupa in realtà delle tematiche transfemministe, con un focus specifico sulla scuola, perché molte di noi insomma sono insegnanti o comunque lavorano nella comunità educante e quindi lavoriamo da sé. Sempre cercando di fare un po' il lavoro di tessitura tra questi territori che sono comunque lontani dai centri urbani e le realtà appunto più di città che magari possono offrire tutta una serie di stimoli, di interessi. Il nostro tentativo è quello di portarli poi in provincia, insomma. Il progetto Lette è anche una delle azioni con cui siamo riuscite a fare più cose in questa zona. Ecco sì, infatti ti volevo chiedere del nuovo progetto, di cosa si tratta. Allora, Libri, Terapie e Spazi Liberi è uno dei messaggi che abbiamo scelto per una campagna di comunicazione che abbiamo fatto uscire attraverso le pubbliche affissioni in occasione della giornata internazionale delle donne dell'8 marzo. Abbiamo lavorato su quella che è una dimensione di attivismo di genere. Abbiamo pensato che fosse interessante creare un punto di incontro, ma anche di formazione e autoformazione per tutte quelle persone che magari sono già sensibili, sensibilizzate, ma anche quelle che lavorano nella società civile, ma non necessariamente, insomma, nell'ambito specifico delle tematiche transfemministe. Questa scuola di attivismo di genere è stata un momento di incontro, di raccordo. L'abbiamo svolta sul comune di San Giorgio di Fiano, che è capofila del progetto. Insieme al comune di San Giorgio c'è anche il comune di Bentivoglio ed è stata molto interessante perché ci ha permesso un po' di fare anche una mappatura dell'esistente su questi territori. Dopodiché, questa è la seconda fase ancora in corso, ci siamo messe proprio in azione in senso letterale con un laboratorio teatrale condotto da Chiara Spata che stiamo per concludere, che dovrebbe darci anche la possibilità di mettere in atto appunto una serie di dinamiche virtuose per attivare i territori. La campagna di comunicazione è stata incentrata su quelle che erano un po' le esigenze di bisogni emersi durante la scuola di attivismo di genere. Devo dire che ci ha aiutato a trasformarla in una bellissima campagna l'associazione Factoria, che è una collettiva transfemminista di Roma, con la quale abbiamo appunto messo insieme le immagini, i claim e tutto quello che è stato poi la parte visibile del progetto a livello di spazio pubblico. Per noi era importante farla, soprattutto perché non è molto consueto in questi territori mettere in atto un simile tipo di azione e anche perché ci interessava un po' attirare l'attenzione delle persone che magari sono un po' fuori dalle nostre bolle. E in effetti questa è la quarta edizione di Elettra, che è un progetto sostenuto dal bando regionale Emilia-Romagna per le pari opportunità. E mentre nelle edizioni precedenti avevamo lavorato sui libri, sugli spazi safe, sull'ecofemminismo, questa volta abbiamo voluto dare una centratura proprio su quello che è la dimensione della comunità. E infatti l'idea è quella anche di orientare le comunità per essere sensibili al contrasto della violenza di genere e del genere. E ovviamente tutto questo in una prospettiva transfemminista. Per noi il tema delle reti, della trasversalità, è centrale, direi che è proprio essenziale perché nei nostri territori appunto è molto importante la capacità di dialogare all'esterno, di avere anche dinamiche virtuose di attivazione reciproca e quindi Elette è sostanzialmente un progetto che appunto ormai va avanti, questa è la quarta edizione, va avanti da tempo sempre in questa prospettiva, cercando di tessere più reti possibili rispetto a questo tema. Anche un po' l'idea di fondo è quella di considerarci tutti in grado di fare qualcosa, di mettere a disposizione qualcosa sul tema del contrasto alla violenza, perché la violenza di genere, ma in generale le violenze del genere, quindi anche l'omo, lesbo, bitransfobia, sono qualcosa che ci richiede un impegno immediato, che è anche un impegno di decostruzione su di sé. Noi vorremmo proprio pensare che anche quei legami di prossimità che sono così evidenti, così attivi nei territori magari più periferici, possano essere connotati in termini termini proprio transfemministi, quindi questo è stato un po' l'intento di questa edizione di Elette. Prima mi parlavi della scuola, cioè del fatto che molte delle vostre attività sono anche riguardo in generale gli spazi culturali, che anche come si legge in una delle descrizioni del progetto, spazi culturali sono uno dei primi luoghi del sapere in cui poi il patriarcato agisce, e quindi il lavoro che fate voi è da questo punto di vista è una cosa molto bella. E invece volevo sapere, per quanto riguarda appunto le scuole, ci sono dei modi in cui si entra in contatto direttamente con l'ambiente scolastico? Riusciamo e siamo riuscite, questo è stato fatto abbondantemente anche nelle edizioni precedenti, a fare delle occasioni di formazione per le docenti, che sono il modo forse più strutturale per approcciare il problema, perché il tema in questo momento è certamente una serie di vincoli, una maggior restrizione per l'accessibilità da parte delle associazioni nelle scuole per portare avanti i progetti di contrasto alla violenza di genere. Però è anche vero che educare alle differenze è una postura che sarebbe bene fosse proprio di ogni insegnante, così che potesse calarla nel proprio ambito di insegnamento, nell'ambito disciplinare. Quindi noi abbiamo lavorato moltissimo sulla formazione e sull'autoformazione. Come Falling Book siamo dentro la rete Educare alle Differenze, che è una rete nazionale che si occupa appunto proprio di queste, non direi tanto tematiche, ma modalità di lavoro a scuola, e sappiamo quanto è difficile, e in questo momento è una fase molto particolare, quanto è complesso portare una proposta direttamente. Però è anche vero che in questo senso la provincia, in particolare insomma il comune di San Giorgio di Piano, grazie ai servizi bibliotecari consente un accesso alle scuole. Questo è molto interessante, perché la biblioteca diventa una sorta di spazio safe che può entrare a scuola, fare delle proposte, portare avanti delle attività con le insegnanti, anche direttamente con i ragazzi e le ragazze, e permette di aprire qualche interrogativo, direi, perché poi il tema è anche essere pazienti, perché questo è un lavoro lungo, non è un lavoro che si risolve con interventi spot. Nel nostro approccio c'è proprio quest'idea che c'è bisogno di una postura e anche una trasmissione di sapere. Noi stesse ci siamo formate, autoformate su questi temi, appunto frequentando la rete, divenendone parte, ma anche incontrando tante esperienze, ospitandole, perché questa dinamica di scambio e anche di formazione dal basso è molto importante.